Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, secondo appuntamento stagionale con Palla Spicchi, Franco Biattani di redazione, Fabio Cantadori in regia, un po' di ritardo, ma naturalmente ci sono cose importanti che stanno capitando a Roma, come avete sentito nel GR. Scivolati via i veli al campionato, in fondo ci siamo divertiti. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao caro gente, amici sportivi, buongiorno, buon pomeriggio, good afternoon a tutti. Good afternoon, ho qui con me uno dei nostri ospiti prediletti, indovinate chi? Jerry, artiglierò questo contratto, Jerry. Saremo sulle più importanti riviste del paese, il nostro più grande avvenimento. Non era Sabatini, Jerry De Rosa. No. Buongiorno, ciao coach. Jerry De Rosa, naturalmente. Ciao coach. Ciao Jerry. Senti coach, prima di campionato non semplice per Siena, nel segno di Aradori, divertente fino al derby di Milano con un Emporio Armani così profonda da far paura, secondo me. Sì, ma anzitutto Sergio Scariolo con ovviamente l'aiuto della società, che proprio Livio Prolli, presidente, Gianluca Pascucci, general manager, amministratore delegato, ma sotto le guide di Scariolo hanno messo insieme una squadra di 12 elementi, una squadra completa, c'è proprio due giocatori solidi in ogni ruolo, veramente è una squadra fatta di gente di talento, e Scariolo ha fatto un lavoro incredibile, perché loro in difesa hanno giocato una difesa che è proprio fantastica, e loro sono forse leggermente preoccupati per il fatto che amalgama in attacco le intese fra i giocatori, ma questa è una cosa logica che viene con tempo. Per quanto riguarda Siena, è chiaro che hanno fatto la partita contro il Cantù per la Supercoppa, e poi la seconda partita, cioè le cose non sono mai facili quando tu sei la squadra campione, ok, hanno un bersaglio, non quello della Coppa Italia, ma sì, il bersaglio sì. Vero sulle spalle, quindi tutti vogliono battere loro, e quindi concorrenza c'è quest'anno, perché Milano ha dato una grandissima dimostrazione di squadra. E anche Cantù non scherza, assolutamente. Sì, Jerry, noi Milano stazza da Eurolega, talento da Eurolega, un po' tutti stiamo facendo il tifo contro la fine del lockout. Tra l'altro oggi David Stern ha detto potrebbe anche saltare l'intera stagione. Io non ci credo, non so tu, Jerry. Ma io sinceramente non so cosa credere, credo che ormai sia praticamente sicuro che fino a Natale non si comincia, però mi sembra che le posizioni restino così lontane, cioè non è stato fatto neanche un passo di avvicinamento, quindi la soluzione può arrivare solo, se possibile, dall'esterno, e dicendo così non so bene neanche a cosa mi riferisco, però mi sembra che le possibilità che si mettano d'accordo siano sempre più lontane e non sempre più vicine, come tutti pensavamo, insomma, quest'estate. Coach, è intervenuto anche Obama, cui poi Sabatini ha scritto, ma di questo ne parliamo dopo, insomma. È intervenuto anche Obama dicendo mi manca l'NBA. L'intervento esterno cui fa riferimento Jerry De Rosa non credo possa essere quello presidenziale, magari quello delle TV. Certo che la tua America senza la pallacanestro per una stagione intera è qualcosa di impensabile. Ma sì, per noi ovviamente che viviamo, che amiamo il basket, eccetera, però come io dico sempre, che non è così. Hanno fatto un sondaggio in America e 80% delle persone che hanno fatto, cioè un sondaggio molto importante fra l'altro, che hanno detto che non ne fa né caldo né freddo se gioca l'NBA, hanno le universitarie, le high school, cioè c'è tanta basket in America, quindi c'è hockey, l'NFL gioca, poi baseball finisce, poi comincia baseball in primavera, quindi l'NBA forse i giocatori, tutti forse voglio dire, sottovalutano il fatto che vivono proprio di specchio per queste cose qua. Non dico uno sport di nicchia, perché non è vero assolutamente. Prima è sempre NFL football, sempre Major League Baseball, ma l'NBA è terzo davanti al hockey, però sia basket che hockey vivono proprio le stagioni invernali, è una cosa del genere, e hanno bisogno di riconoscere che non è una cosa sicura. La gente può girare le spalle in due secondi, cioè 80, e uno di questi 80% è il mio fratello, fra l'altro, che vive a Charlotte, cioè, se l'NBA non gioca, cioè, a me non mi fa né caldo né freddo, cioè, proprio perché lui è rimasto molto deluso quando i Hornets hanno lasciato Charlotte per andare a New Orleans, adesso arrivano i Bobcats e dice, non mi interessa, cioè, se mi danno i biglietti gratis sulla linea di metà campo in prima fila, non attraverso neanche la strada da casa mia lì per vedere la partita. Quindi per noi è impensabile, ma non per tutti in America. Noi amanti del basket sì, cioè vogliamo la nostra NBA, però non è del tutto così, c'è molta apatia tra la gente lì. Sì, rischiano grosso, rischiano l'autogol. Rischiano grosso, l'autogol. Grosso, e non vogliono uccidere quello che fa la uova d'oro, cioè proprio così, sì. Però stanno rischiando di brutto. Grazie coach, alla prossima, ciao, venerdì. Ciao coach. Ciao Carlo, a verci tutti, ciao. Ciao, grazie coach Dan Peterson. Palla spicchi. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Egregio signor Presidente, abbiamo un sogno. Quello di vedere Kobe Bryant giocare nella nostra squadra, la Virtus Pallacanestro Bologna. Città conosciuta in tutto il mondo come Basket City. Condividiamo con lei il desiderio che il lockout NBA finisca presto. Ma nel frattempo ci conceda l'opportunità di veder giocare, almeno per una partita, il grande Kobe Bryant con la maglia bianconera, in modo tale da farlo diventare parte della nostra storia. Claudio Sabatini. Vedi, caro amico, cosa si deve inventare per poter ridere. Allora, caro Jerry De Rosa, gente che scrive come Claudio Sabatini o come i nostri ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi 349 238 6666, gente che scrive anche su Facebook, pagina di Palaspeaky, su Twitter, con tutti i modi. Gli sms, Sabatini sta puntando a Bryant a Bologna per un tiro libero durante l'intervallo di una partita, andrà da Nocetto. Luca da Bologna, Sabatini riesce sempre a trasformare le buone idee in pagliacciate, speriamo Obama non dichiari guerra all'Italia. Poro Sabatini, ha fatto tutto il possibile, compreso scrivere a Obama. Più di così, sì, che può fare? Anche più del possibile, oserei dire. Gente che scrive anche come Roberto De Ponti, che oggi su Corriere della Sera in corsivo, ultima su Kobe, Obama aiutaci tu, questa storia della lettera. E chiude così, l'alternativa però potrebbe essere l'ingaggio a gettone di Dirk Nowitzki chiedendo intercessione al Papa. Insomma, direi che non c'è bisogno di particolari commenti, insomma. Secondo me si sta trascinando da troppo tempo questa storia, sì. Abbiamo già avuto occasione di parlarne, insomma io non sono un po' più all'antica, credo che, e sono contento se si parla di basket, ma se ne parla bene, insomma, se ne parla perché c'è una trattativa così, finora è stata solo teorica e sulla carta e nell'etere interessa relativamente. Certo che, insomma, al di là degli amichevoli e di queste forme di gadget cestistico, onestamente io Kobe per 10 partite in Italia ce l'avrei visto, nel senso che avrebbe fatto parte comunque della nostra Lega, come fa parte a tempo determinato della nostra Lega Danilo Gallinari. Non so se ne farà parte Bargnani, ma lì mi sembra che i tempi siano un po' più lunghi. Belinelli non ho notizie, tu? No. Non compare. No. Non sembra vicino, insomma, a muoversi per il momento. E anche Scalabrino, uno dei personaggi del nostro basket, che dice, intervista di oggi sulla Gazzetta, Kobe Bryant potrebbe giocare qualche gara nella Virtus. Risposta, sarebbe una gran cosa, davvero. E credo che lui sarebbe perfettamente conscio, altrimenti non avrebbe neppure iniziato le trattative, porterebbe un sacco di gente nei palazzetti, alzerebbe il livello di gioco, dello spettacolo, spero trovino l'accordo. Io l'avrei visto bene, perché comunque una botta di adrenalina alla nostra pallacanestro ce l'ha bisogno. È chiaro che non risolve nemmeno un problema tra i tanti che ci sono, però avremmo avuto un'estate indiana, insomma. No, questo è poco ma sicuro, è chiaro che tutti vorremmo vedere almeno una volta nella vita Kobe Bryant da vicino, Kobe Bryant al vivo. La gente che ha mosso a Milano e a Roma nel suo giro promozionale ne è la testimonianza, però io cercherei di portare gente nei palazzetti, di trovare il modo per portarli sempre, non per 10 partite. È chiaro che è un'impresa molto più difficile, ci vuole una comunità di intenti che in questo momento non c'è, ed è sicuramente una strada molto più breve quella di spendere un sacco di soldi per Bryant e riempire. Però una volta, anche se Bryant arriva, una volta che va via, che facciamo? siamo al punto di partenza con un campionato comunque già cominciato, che sarà diverso da, dalla prima fase, sempre che cosa che mai non succederà, sempre che Kobe giochi qualche partita. Io sto sulla vicenda del lockout più con i cinesi, cioè i cinesi hanno detto chi vuole venga, i soldi ci sono anche, ma se vuole venire qualcuno che stia qua tutto l'anno, lockout o non lockout, allora è un altro discorso. E tra l'altro qualcuno forte l'hanno preso, come no, sì, J.R. Smith, qualcuno che ha deciso di rischiare e di dire poi se ricomincia l'NBA io un anno lo faccio qua, e dove il livello è sicuramente molto basso, dove comunque è un'esperienza di vita, e in quel caso lì allora si ha la garanzia di un campionato con palazzetti pieni o quasi pieni sempre dall'inizio alla fine. Così mi sembra sinceramente la classica cosa all'italiana di alzare il tappeto, buttarci dentro un po' di polvere, essere tutti contenti per un po' e poi quello che succederà dopo ci penseremo. Davide da Bologna, Carlo a provincia di Milano, primi due ascoltatori di oggi, 800 24 00 24. Poi voglio parlare anche di naturalmente di Eurolega che inizia in settimana e che sarà almeno nelle prime partite un torneo assolutamente stellare come mai si è visto su questi palcoscenici. Tra l'altro c'è una notizia di oggi interessante che poi vorrei commentare, questa possibilità di cambiamento del format dell'Eurolega dalla prossima stagione con le partite al venerdì per non andare a bocciare con la Champions League del calcio. Chiaramente questo comporterebbe delle modifiche ai calendari dei campionati nazionali. Ne parliamo dopo. Intanto Davide, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Kobe City, dall'ex Basket City, dall'ex, ormai, secondo me. Ma se l'abbiamo detto anche a Obama che è Basket City. Ho l'impressione che a Sabatini interessano, e lo dico da tifoso virtusino deluso, che interessino più le vittorie mediatiche che le vittorie sul campo. No, non credo. Le squadre allestite dal presidente ultimamente hanno fatto un po' ridere i polli. Davide, però questa non è male. La ricerca così mediatica di questo tentativo mi lascia qualche perplessità. Ma si possono anche fare tutte e due le cose. Mi sembra che questa Virtus Bologna, Kobe o non Kobe, chiaramente non Kobe, sia una cosa seria. Ad esempio, abbiamo visto questa vittoria su Roma, che è stata la partita più intensa giocata nel primo weekend di campionato, con l'omone Oman, che mi sembra un giocatore serio. C'è Terrell McIntyre, che non sarà quello di 4 anni fa, di 3 anni fa, forse nemmeno di 2, però insomma è comunque un grandissimo giocatore. Jerry. Sì, ma bisogna riconoscere comunque, è vero quello che diceva Davide, che a Sabatini interessa molto le vittorie mediatiche, questo è indubbio, però bisogna riconoscere intanto il comportamento in campionato della prima squadra, che è stato quasi sempre ad alto livello, è arrivato anche una vittoria in una Coppa Europea, seppur non la più importante. Ha ristrutturato il settore giovanile, ha costruito un ottimo settore giovanile e ha implementato di anno in anno questo settore giovanile, quindi non è solo, diciamo, apparenza quello che fa. Poi è chiaro che ogni tanto si lascia andare in queste cose, lui piace essere in prima pagina, però insomma il lavoro poi c'è stato. Andiamo avanti. Carlo dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Due considerazioni veloci. Sono un tifoso dell'Olimpia. Sono felice che il basket sia tornato sulle reti Rai, anche se in molti storcono il naso, le telecronache non sono all'altezza di Sky, dicono, però così secondo me c'è più visibilità, la gente riesce più a vedere il basket e magari tornerà anche i palazzetti. Io ringrazio Sebastiano Barisoni per questa notizia, per questo aggiornamento quanto mai importante, che è arrivato appunto nel corso di Palaspicchi. Adesso riprendiamo a parlare di basket con questo messaggio. Finalmente ci voleva De Rosa per dire una cosa intelligente sull'affair Bryant. Grazie. O ne ho un'opinione, non è la cosa. No, ma è che io continui a dire stupidaggine arcinota. L'opinione si è divisa, sì, l'opinione pubblica. Quindi, ma certo, ma come è giusto? Ma finalmente, Dio che si divida l'opinione su qualcosa nella pallacanestro, sennò si va tutti in questa situazione e ci rompiamo le scatole da morire. Invece, Carlo, è ancora in linea? Carlo, l'abbiamo interrotta sulla breaking news sul voto di fiducia, quindi era una cosa abbastanza importante. Non c'è nessun problema. Non so lei cosa abbia votato. Ma io preferirei non votare su queste cose, stare. È meglio. Dica. Niente, dicevo che io ero felice del ritorno del basket sulla Rai, così c'era più visibilità da parte della gente, anche non abbonata a Sky, ed anche più informata quando ci sono le partite, e la gente magari ritorna più volentieri anche a vedere una partita, sapendo quando si gioca. E l'altra cosa in che, senso sapendo, in che senso sapendo quando si gioca? Perché prima si sapeva? Era più complicato andare a sapere quando c'era una partita di basket, così si sa bene quando si gioca. La domenica alle 18:15 e poi c'era l'anticipo del sabato, e adesso hanno rimesso il posticipo domenicale, che è una cosa che a me non mi sembra una grandissima idea. Se all'Eurolega stanno progettando le partite del venerdì per non andare in conflitto con la Champions League, così il basket italiano con la partita alle 8:30 ci va a sbattere sul posticipo domenicale del calcio. Quanto al resto, non lo so, vediamo poi alla fine i numeri di quanto sono diversi. Certo che, non perché segui Jerry De Rosa, però la qualità di Sky alla Rai in questo momento non c'è, ma come prepartita, come contorno, come immagini, come produzione, come commento, come un sacco di cose. Secondo me, è un mio parere, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu. Io sinceramente, essendo parte in causa, sono parte in causa. Poi devo dire che noi per i 7 anni in cui abbiamo trasmesso il campionato non ci siamo mai permessi di nemmeno nominare, insomma, dei colleghi o delle altre televisioni. Vorrei proseguire, insomma, su questa, perché mi sembrerebbe di cattivo gusto. Certo, hai ragione. Noi abbiamo accettato la decisione della Lega, appunto. Questa. Per la cronaca volevo dire che una cosa curiosa, la prima partita stagionale trasmessa dalla Rai domenica ha rischiato il conflitto con la partita di pallavolo che è finita in un combattutissimo quinto set, e quindi l'inizio del derby lombardo di Milano-Varese è stata posticipata di qualche minuto per attendere proprio la fine della partita di pallavolo, quindi si è iniziato con 7 minuti di ritardo. Vabbè, ci fermiamo per la borsa adesso. 800 24 00 24, io e Jerry De Rosa vi aspettiamo qui. Palla spicchi. Torniamo dunque con Jerry De Rosa, con un sacco di messaggi tipo, so, vado a caso, vostro parere su quanto è successo a Bologna, in Bologna-Roma decisa da canestro di Bologna con Tucker a terra, situazione da moviola. La situazione limite, se il regolamento dice che se a terra c'è un giocatore della squadra in difesa, l'arbitro ferma la partita solo se si rende conto che l'atleta si è fatto male tanto e rischia qualcosa. E credo che la polemica al limite deve essere fatta sul blocco che l'ha mandato a terra, se era fallo o meno. Ma guarda Jerry, e secondo me è giusto così. Fischia l'arbitro, una pallacanestro succede più abbastanza spesso, no? Gioco di contatto, fischia l'arbitro, il gioco si ferma, altrimenti si va a tirare. Sì, anche perché il regolamento lo prevede, insomma, l'arbitro è costretto a farlo solo, cioè costretto, è un'interpretazione arbitrale. Esatto. Si rende conto che il giocatore si è fatto male veramente, sta rischiando qualcosa della sua incolumità, deve fermare il gioco. Se no, la squadra in difesa deve difendere. Andare in quattro, certo, l'attacco non è che butta la palla sui cartoni pubblicitari, no, come fanno i nostri signori, no, del pallone, che è una cosa che io detesto, una delle cose che più mi fanno imbestialire. E io faccio il tifo, provato a evitarla qualche anno fa, no? È stata messa a posto una regola, ma è stata, io faccio il tifo passato per quelli che col giocatore a terra vanno a segnare, faccio il tifo per loro, e fossi un presidente, l'ho detto molte volte, multerei i giocatori che buttano la palla fuori. Ovviamente se è un infortunio serio i giocatori lo capiscono benissimo, in quel caso ci mancherebbe, ma l'arbitro fischia, altrimenti si gioca come in tutto il mondo. 800 24 00 24 numero verde. C'è un amico che ha scritto beh non male su Facebook, sulla nostra pagina Facebook in tempo reale, beh non male, complimenti alla Rai, e salta la telefonata, altro che strategia da Camera dei Deputati. Invece Daniele Bini: De Rosa, mettiti sul mercato commentatore freelance, eri il più bravo, competente e pacato, te lo regalo Gianni. Grazie mille. Oscar da Daniele Bolzano. Poi ci mettiamo d'accordo. Mettete d'accordo. Oscar da Bolzano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo solo fare il discorso sui commentatori, visto che parlate dei commentatori. Sì. Quando qualcuno si deciderà a dire a queste persone di non attaccare la E su una consonante alla fine della parola, tipo conne, perre, delle, appena prima, della pallone, ma è possibile che non si può pronunciare del invece che delle? Tutto qui. Si riferisce credo più a commentatori di calcio, credo. Calcio, ma anche altri sport. Quando sentiamo parlare il grande Dan e anche il suo collega, non esiste. Quando sentiamo parlare di di pallavolo, anche di basket, di calcio, alla ricerca della pallone, perché della? Eh sì, è sbagliato. Io lo so che rompo le scatole. No, ma quelli che rompono le scatole sono altri. Seria, no? No, fa bene. Noi li prendiamo in considerazione perché molto spesso certe cose vengono dette quasi senza che uno se ne accorga, e sentirsele dire è molto importante, almeno per me. Io ci penso poi ogni tanto se per caso appunto mi rendo conto di fare certe cose, cerco insomma di lavorare su quello, quindi sono molto importanti questi suggerimenti. Quindi grazie Oscar, grazie professore. Stefano, provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo fare un riferimento a quanto si diceva prima su come le televisioni accompagnano gli eventi sportivi. Io stesso caso da appassionato di basket, però in generale preferisco chi mi accompagna con un commento, con un aiuto che sia tecnicamente più alto possibile. Nel basket mi reputo un filo competente, quindi mi fa piacere, ma anche in altri sport, per esempio non so, il rugby, per stare in quello che accade, cioè, nella qualità. Lei dice commento tecnico, sottolinea l'importanza del commento, anche tecnica del commento. Certo, sì. Perché mi sembra, quello mio parere, che in generale la RAI, ma anche col calcio, tende ad avere un atteggiamento rivolto soprattutto ai neofiti, per cui il livello per chi quello sport in particolare lo pratica o comunque ne ha una conoscenza un attimino di un certo livello, preferisce capire meglio, insomma, preferisce capire meglio. Certo, in RAI diciamo ascoltare un commento, vedere una partita di basket senza audio, per me è la stessa cosa, non per togliere la professionalità a chi commenta, perché questa professionalità non viene messa in giusto rilievo. Quindi passiamo qui dall'appunto linguistico della grammatica della telecronaca all'analisi del prodotto, sì, più che del periodo. Sì, cioè io posso parlare, ovviamente rispondere per me. Io cerco sempre di trovare, almeno provo, perché poi sono appunto chi a casa che deve giudicare, provo a trovare un equilibrio fra l'accompagnare e il raccontare qualcosa, perché secondo me il telecronista si deve sentire poco se la partita è molto bella, e quasi uno non deve quasi rendersi conto che c'è qualcuno, perché è sufficiente la partita bella. Beh, comunque è difficile anche trovare la chimica col partner che è il commentatore, certo, tecnico. Questo infatti noi cerchiamo di seguire determinate regole che poi in diretta spesso non si riescono a seguire, di per esempio parlare noi come commento play by play, come si dice in gergo, quando la palla è in gioco, e il commento tecnico quando la palla non è in gioco. Questa è più o meno la regola che cerchiamo di seguire, e che insomma vi renderete conto che non è neanche così semplice, però certo, insomma permette di avere il ritmo. È chiaro che si dovrebbe cercare di dire sempre delle cose interessanti, non sempre si riesce, però la tendenza è quella lì, e la cosa che io trovo più difficile è proprio capire quale deve essere l'equilibrio fra l'accompagnare e il raccontare a seconda del tipo di partita che stai commentando. Lo devi fare ovviamente in diretta, in questo senso insomma il tentativo è quello lì. Certo, quindi lezione anche di telecronaca dal professor Gerry De Rosa da Sky, ma bellissimo, non l'ho mai fatta, è una cosa molto interessante. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. So se anche lei vuole entrare in regole grammaticali o preferisce. No, io ho un tema più veloce, più terra terra. Intanto l'anno scorso su Sport Italia ho seguito l'Eurolega, e secondo me non ha niente da invidiare l'NBA. E quando i Memphis Grizzlies vanno a giocare a Los Angeles è la noia più mortale del match, nel senso è inutile guardare una partita del genere. L'anno scorso l'Eurolega, Barcellona o le greche hanno regalato partite spettacolari. E poi questo però lo chiedo a voi: come si può dire che una persona come Kobe Bryant, che viene a giocare in Italia, non sia utile al campionato? Uno che è capace di fare 80 punti a partita e quando si rompe la mano destra impara a tirare con la sinistra. Sì. Cioè, stimolo e spunto per tutti. Cioè, se si investisse di più sull'Eurolega e si abbassasse il livello di questo campionato italiano, guardate che i soldi va in Europa, fa 80 partite, porta a pallacanestro, però non hai soldi, gioca Marco, a Venezia, sì, e fa causa al campionato, perché la Reier è una vergogna. Cioè, la Reier è una vergogna, secondo me è vergogna delle vergogne è che sia stata ammessa al campionato una settimana prima, e rifare i calendari, e campionato zoppa 17 squadre, l'anno prossimo allargamento, mentre io andrei nella direzione opposta, cioè quello del ridurre il numero di squadre di elite, creare un campionato professionistico in senso completo, in senso puro, quindi senza troppi legacci sul numero degli italiani comunitari passaportati e formazione italiana, senza alcun pasticcio di questo tipo, tanto che vediamo, Jerry, anche giocatori italiani della nazionale, faccio i nomi di Mordente e Vitali, che sono lì ad aspettare la squadra col campionato che è già partito. Sì, sì, non c'è dubbio. Io credo che l'ascoltatore intendesse la vergogna alla vicenda della Reier, sì, perché comunque la Reier in Serie A è un dato di fatto e, stando alle regole, se l'ha anche meritato sul, certo, campo. Quindi è tutta la vicenda che è stata obiettivamente ridicola in partenza, insomma, anche col balletto delle date su quando consegnare i famosi 500.000 euro, insomma, adesso è inutile che stiamo qua a rivangare tutta la storia. È chiaro che l'impressione che se ne è avuta da tutta questa vicenda è che questo movimento si muova a seconda di quello che succede, non cerchi di prevederlo. Allora è chiaro che è tutto un mettere una toppa una dietro l'altra finché si arriva al campionato 17, alla prossima stagione 18, anche se ci avevano sempre detto che la tendenza sarebbe stata di diminuire e così via. 800 24 00 24, numero verde traffico, poi torniamo con Jerry De Rosa e parliamo sì di Eurolega, perché l'Eurolega sta per cominciare ed è, io non, a me non piace questo parallelo con l'NBA perché sono cose profondamente diverse. Continuo a pensare che l'Eurolega in stagione regolare sia il miglior spettacolo cestistico del mondo, poi quando cominciano i playoff NBA, beh, la storia diventa un po' diversa. Traffico. Nuova Volkswagen Passat Variant con leasing finanziario a 280 euro al mese, TAEG 4,90. Vi presenta Strade in diretta. Bentrovati, code dopo un tamponamento in uscita da Genova sull'autostrada A12, siamo tra Genova Nervi e Recco. A seguito di altri incidenti, 7 km di coda ora sulla A4 Milano-Brescia in uscita da Milano tra Monza e Cavenago e code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare di Roma. Siamo tra la Nomentana e la Salaria con il traffico che scorre in complanare. Ricordiamo che nella capitale sono possibili stop per i collegamenti con le periferie fino alle 15.30 causa sciopero della Roma TPL. Mezzi pubblici a rischio anche a Pescara dalle 16 alle 24. Ed è tutto, Strade in diretta torna tra un'ora. Promo 24. Ci si domanda come si muoveranno domani i mercati finanziari e per questo bisogna poter dare valore alle proprie idee con il trading sui CFD. È possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime, iniziando a fare trading sui CFD con IG Markets. La piattaforma di IG Markets non comporta alcun canone di utilizzo, dà accesso a oltre 20 borse internazionali 24 ore su 24, offre notizie in tempo reale, un pacchetto grafici avanzato e un corso online gratuito per imparare tutto sui CFD. IG Markets è il primo in Italia per il trading con i CFD. Demo gratuita su www.igmarkets.it. Palla spicchi. Allora parliamo di Eurolega parterre de Roi. Jerry De Rosa, si è aggiunto Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Ciao Flavio. Senti, si parte lunedì. Zalgiris, Cesca, Mosca, Tyloson contro Kirilenko, Teodosic, Krstić. Abbiamo già accennato, Flavio, nelle scorse chiacchierate, adesso siamo alla vigilia dell'Eurolega più bella di sempre. Sì, è un'Eurolega molto bella perché ha varie sfaccettature. La prima sfaccettatura mi sembra l'equilibrio per vari motivi anche congiunturali, penso alla situazione delle squadre greche, al CSKA in ridivenire a nazioni che magari anche per questo, e l'Italia per fortuna è tra queste, possono accampare ambizioni, c'è grande equilibrio. La ciliegina sulla torta è il Tyloson, il Kirilenko, il Gallinari, Rudy Fernandez della situazione, solo una ciliegina ma veramente gustosa, e quindi penso che ci siano tutte le carte in tavola per farla diventare davvero una cosa come l'NBA, cioè una cosa sentita come di tutti, non solo della Spagna se va bene il Barcellona o dell'Italia se Siena va alla Final Four. C'è questa anche sottile neanche tanto inversione di equilibrio, ad esempio tra le varie sfaccettature, Jerry, tra Grecia e Turchia, con la Grecia sta vivendo la crisi delle grandi Panathinaikos e Olympiakos, con la Turchia che ha le Final Four a Istanbul e sta facendo raccolta di tutti quelli che può prendere, Jerry. Sì, Fenerbahce e Anadolu Efes, come si chiama quest'anno, perché insomma non poteva più essere messo lo sponsor della birra secondo la legge turca. Comunque le due squadre di Istanbul stanno facendo veramente un grande mercato, stanno rinforzando clamorosamente, fra l'altro sull'onda anche dei mondiali di un anno e mezzo fa, di due anni fa in Turchia. Sta vivendo questo momento di grande espansione, avrà le Final Four in casa, è chiaro insomma che la Grecia, secondo me, anche negli ultimi due o tre anni di Olympiakos e Panathinaikos, dei grandi investimenti, erano strani obiettivamente, erano in controtendenza rispetto purtroppo all'andamento politico, sociale, insomma, della Grecia. Evidentemente quest'anno hanno dovuto per tenere un paio di grandi stelle e comunque indebolirsi notevolmente, è indubbio insomma che le due turche, che per tradizione comunque costruiscono sempre squadre forti ma si fermano quasi sempre sul più bello, insomma quest'anno però sembra obiettivamente l'anno buono. Flavio, si parla anche di un cambiamento di format dell'Eurolega, in particolare della seconda fase, quella delle top 16, che dovrebbe essere più ampia, quindi composta da gironi più larghi con più partite, 14 gare invece delle 6 attuali, e quindi con partite che andrebbero al venerdì per non fare a testate col calcio e con la Champions League. Insomma, è un'Eurolega che guarda anche avanti, mi sembrano delle idee plausibili. È chiaro che questo andrebbe ad influire con i calendari dei campionati nazionali, però l'Eurolega chiede il passo, insomma. Sì, chiede il passo, soprattutto risponde a diverse esigenze, quelle delle squadre di avere più partite in assoluto e soprattutto più partite garantite, e quindi sì, quella è la direzione. Tu hai citato quelli che dovrebbero essere, anche se ancora devono essere votati, i due cambiamenti che avverranno a partire dalla prossima stagione. Poi naturalmente c'è anche un altro cambiamento, che non è tanto un cambiamento quanto semplicemente una continuazione di una linea, cioè quello di giocare in palazzi solo di un certo tipo. Questo è un altro passaggio imprescindibile per arrivare però a una situazione in cui, secondo me, è abbastanza chiaro qual è il punto d'arrivo. E il punto d'arrivo è che, fotografo la situazione oggi, il Barcellona debba giocare con il Panathinaikos, l'Armani Jeans e il Fenerbahce sia il giovedì che alla domenica, per sintetizzare. Io non vedo un'altra un'altra via d'uscita. Poi in come arrivarci, in quanto arrivarci, è sicuramente molto da dibattere, ma che si vada verso quella direzione è fin troppo facile da capire. Una Superlega a livello europeo, quindi un campionato vero e proprio, quello che insomma che alcuni vedevano, io no, ma alcuni vedevano come il grande spettro del calcio. Però a una Superlega, secondo me, si deve arrivare. È questo che dici? Ma io dico semplicemente che quelli che spendono 100 hanno più interesse a giocare con altri che spendono 100, e quelli che spendono 30 hanno più interesse a giocare con altri che spendono 30. Questo da tutti i punti di vista, economico, sportivo, di senso generale e di vendibilità del prodotto. Se uno non è d'accordo con questa premessa ed è libero di non essere d'accordo, allora si può andare avanti così. A me sembra che qualche scricchiolio lo mandi questo modello, però magari sono io ipersensibile con le orecchie. No, io sono d'accordo. No, basta vedere, insomma, in Grecia non riescono a cominciare il campionato, il Maccabi per trovare squadre andate in Lega Adriatica, tornate in Lega Adriatica per trovare squadre più o meno del suo livello. È chiaro che gli scricchioli ci sono. Io capisco anche tutti quelli che hanno nostalgia del vecchio sistema, no? Si parla ancora adesso di quanto era bella la Coppa dei Campioni con una partita alla settimana, eccetera. Però insomma, di calcio ma anche di pallacanestro, a me piace molto di più quella. No, certo, però capisco anche quelli che hanno un minimo di nostalgia e hanno massimo rispetto, però è evidente che si va, come diceva Flavio, in questa direzione e bisogna prenderne atto, perché quella è la strada, insomma. Io meno nostalgia, ti dico la verità. Flavio, per chiudere, i tre match delle nostre in questa settimana: la Montepaschi che gioca in casa dell'Unis contro l'Ingriere Domerkant, Cantù che riceve a Desio la Nancy di Batum. Nancy, dici, vabbè, giocano i francesi, c'è Nicolas Batum, ma soprattutto Milano Maccabi con Papa Lucas, Jordan Farmar, eccetera, eccetera, eccetera. Probabilmente Langford. Beh, insomma, sono già tre partite, sono già i tre grandi eventi, anzi, Milano-Maccabi, il grande evento di questo inizio stagione. Assolutamente sì, è una partita di grande fascino, poi il Maccabi lo sa già, e Milano, che certo non è nuova all'Eurolega, ma per la prima volta nel recente passato parte non per andare alla Top 16, se non è parte per vincere l'Eurolega. Poi è ovviamente molto difficile vincere, ma l'elenco dei nomi è un elenco di un certo tipo, come quello del Maccabi, come quello di almeno altre 6-7 squadre. Il Maccabi lo sa già, dicevo, e Milano lo imparerà molto velocemente, che questa è una maratona e non sono i 100 metri, quindi la prima partita ha un grande fascino, molta importanza, ma vincerla non ti manda direttamente a Istanbul e perderla non ti manda KO definitivamente nella maniera più assoluta. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. Saluti. Grazie, grazie Flavio Tranquillo. Alessandro da Milano e siamo di corsa, un minuto per chiudere. Alessandro, dica. Ok, salve. Io volevo semplicemente dire due cose. Io sono di quelli che è rimasto un po' deluso dal passaggio del basket dalla Rai alla Sky. Ecco. Perché secondo me c'è una differenza abissale. Senza contare che non sono poi così tanto d'accordo che alla fine riporti con il pubblico, nei palazzetti. Questo lo diranno i numeri e comunque tant'è così andata, insomma, non mi sembra che siano necessari molti commenti. Federico da Novara, abbiamo 10 secondi. Dica, velocissimo. Prego. Premetto che non ho seguito l'inizio della trasmissione e neanche tutta la soap opera Kobe, può risentirla però, in podcast con la lettera di Sabatini, dica. Però vi immaginate che bello sarebbe, anche solo per un paio di partite, che ritorno economico avrebbe riuscire a mettere un giocatore NBA per ogni squadra italiana e squadra europea e vederli due volte. E quello è vero, e su quello sono d'accordo, ma non riescono a mettersi d'accordo loro nemmeno su argomenti più semplici. Jerry, torna presto, ti prego. Quando vuoi. Grazie. A Jerry De Rosa da Sky, Franco Pietrini in redazione, Fabio Cantone in regia, domani alle 5 con lo Sport qui.